Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Alle 2:30 del giorno successivo alla nostra ultima visita a Casa Finzi Contini, infatti, l'ora all'incirca che ci vedeva sbucare uno dopo l'altro dalla galleria delle roselline rampicanti e gridare «Salve!» o «Ehi là!» o «Omaggi!», il campanello del telefono di casa mia era squillato per mettermi ugualmente in contatto, attraverso le raffiche di pioggia che si rovesciavano in quel momento sulla città, con la voce di Nicole. La sera stessa, a mia volta, ero stato io a telefonarle, e di nuovo lei, il pomeriggio dell'indomani. Avevamo potuto continuare a parlarci esattamente come negli ultimi tempi, insomma, grati adesso come allora che Bruno Lattes, l'Adriana Trentini, Giampiero Balnate e tutti gli altri ci lasciassero stare, non dessero segno di ricordarsi di noi. E del resto, quando mai avevamo pensato a loro, io e Nicole, durante le nostre lunghe scorribande nel parco, prima in bicicletta, poi a piedi, così lunghe che, talora al ritorno, non trovavamo più anima viva né sul campo né nella hütte? Seguito al solito dagli sguardi preoccupati dei miei genitori, mi chiudevo nello sgabuzzino del telefono. Formavo il numero e spesso era lei a rispondere direttamente, e con tale prontezza, inoltre, da farmi sospettare che avesse il ricevitore a continua portata di mano. «Da dove stai parlando?» avevo provato a chiederle. Si era messa a ridere. «Ma da casa, suppongo. Grazie dell'informazione. Volevo soltanto sapere come fai a rispondere sempre tic e tac, con tanta rapidità, voglio dire. Cos'hai? Il telefono sulla scrivania come un commendatore? Oppure ti aggiri dalla mattina alla sera attorno all'apparecchio con l'andatura di una tigre in gabbia?» Mi era sembrato di cogliere dall'altro capo del filo una leggera esitazione. «Se lei arrivava al telefono prima degli altri», aveva poi risposto, «ciò dipendeva dalla leggendaria efficienza dei suoi riflessi muscolari, ecco tutto, e dall'intuito di cui era fornita, naturalmente, anche dall'intuito che ogni qualvolta a me venisse in mente di chiamarla, le consentiva di trovarsi sempre a passare vicino al telefono. Quindi aveva cambiato discorso. Come andava la mia tesi su Panzacchi? E con Bologna, non fosse altro che per cambiare un po' aria, quando contavo di ricominciare il solito va e vieni? A volte, invece, erano gli altri, o Alberto, o il professor Ermanno, o una delle due domestiche, e persino la signora Regina, una volta, che al telefono dimostrò una sorprendente finezza d'udito. In questi casi non potevo esimermi dal dichiarare il mio nome, si capisce, né dal dire che era con la signorina Nicole che desideravo parlare. Tuttavia, dopo qualche giorno, la cosa da principio mi imbarazzava anche di più, ma pian piano mi ci abituai. Dopo qualche giorno bastò che lasciassi cadere nel microfono il mio «pronto?» perché dall'altra parte ci si affrettasse a passarmi senza indugio chi cercavo. Lo stesso Alberto, quando era lui a venire all'apparecchio, non si comportava in modo diverso, e Nicole subito lì, invariabilmente, a rubare il ricevitore di mano a chi ce l'aveva, proprio come se tutti quanti stessero sempre raccolti dentro un'unica stanza, living room, salotto o biblioteca che fosse, ciascuno sprofondato in una grande poltrona di cuoio e col telefono a pochi metri di distanza. C'era da sospettarlo, sul serio. Per avvertire Nicole, la quale, al trillo del telefono, mi pareva di vederla, alzava gli occhi di scatto, si limitavano probabilmente a porgerle di lontano il ricevitore, Alberto magari aggiungendo, per parte sua, un ammicco tra sardonico ed affettuoso. Un giorno mi decisi a chiederle conferma dell'esattezza delle mie supposizioni, e lei stette ad ascoltarmi in silenzio. «Non è così?» incalzai. Ma non era così. «Visto che ci tenevo tanto a sapere la verità», disse, «ebbene, eccola. Ognuno in casa loro disponeva in camera propria di una derivazione telefonica, dopo che lei l'aveva ottenuta per sé, anche il resto della famiglia aveva finito con l'adottarla. Sistema utilissimo, raccomandabilissimo, in virtù del quale uno poteva telefonare a qualunque ora del giorno e della notte senza disturbare né essere disturbato e, di notte soprattutto, senza muovere un passo fuori dal letto. «Che razza d'idea!» esclamò quindi ridendo. «Come mai mi era venuto in mente che loro stessero sempre tutti quanti insieme, stile hall d'albergo? E per quale ragione poi? Strano, comunque, che quando non era lei a rispondere direttamente, io non mi fossi mai accorto del click del commutatore. No, ripeté categorica, per difendere la propria libertà non c'è niente di meglio che una buona derivazione telefonica. Dico davvero, dovresti fartene mettere una anche tu, in camera tua. Sai che bottoni chilometrici ti attaccherei, specialmente di notte. E così adesso tu mi telefoni da camera tua? Sicuro. E stando a letto, per giunta. Erano le 11 di mattina. Non sei straordinariamente mattiniera, osservai. Oh, anche tu, si lagnò, che il papà ha 70 anni suonati e con quello che sta bollendo in pentola continui ad alzarsi tutte le mattine alle 6:30 per dare il buon esempio, come dice lui, e indurci a non poltrire in molli piume, transeat. Ma che anche i migliori amici adesso si mettano a fare i pedagoghi mi sembra francamente eccessivo. Lo sai da che ora è in piedi la sottoscritta, caro mio? Dalle 7. E osi meravigliarti alle 11 di cogliermi di bel nuovo a letto? Del resto non dormo mica. Leggo, scribacchio qualche riga della tesi, guardo fuori, faccio sempre un mucchio di cose quando sono a letto. Il caldo delle coperte mi rende incomparabilmente più attiva. «Descrivimi la tua stanza», fece schioccare a più riprese la lingua contro i denti, in segno di diniego. «Ah, quella mai! Verboten! Privat! Posso, se vuoi, descriverti quello che vedo guardando fuori dalla finestra?» Vedeva, attraverso i vetri, in primo piano, le sommità barbute delle sue Washingtonia Graciles, che la pioggia e il vento stavano battendo indegnamente. E chissà se le cure di Titta e Bepi, i quali avevano già cominciato a fasciare i loro tronchi delle solite camicie di paglia invernali, sarebbero bastate a preservarle nei mesi prossimi dalla morte per assideramento, incombente ad ogni ritorno della brutta stagione, e finora sempre evitata, per fortuna. Poi, più in là, nascoste a tratti da brandelli di nebbie vaganti, vedeva le quattro torri del castello, che i rovesci di pioggia avevano reso nere come tizzoni spenti, e dietro le torri, lividi da far rabbrividire, e anche essi celati ogni tanto dalla nebbia, i lontani marmi della facciata e del campanile del Duomo. Oh, la nebbia! Non le piaceva, quando era così, che le faceva pensare a degli stracci sporchi. Ma presto o tardi la pioggia sarebbe finita. E allora la nebbia di mattina, trafitta dai deboli raggi del sole, si sarebbe trasformata in un che di prezioso, di delicatamente opalescente, dai riflessi cangianti simili in tutto a quelli dei lattimi di cui aveva piena la stanza. L'inverno era noioso, d'accordo, anche perché impediva di giocare a tennis, però offriva dei compensi. Già che non esiste situazione, per triste e noiosa che sia, concluse, la quale non offra in fondo qualche compenso, e spesso sostanzioso. «Lattimi?» domandai. «Che roba è? Da mangiare?» «Ma no, no!» piagnucolò, inorridendo al solito della mia ignoranza. «Sono vetri, bicchieri, calici, ampolle, ampolline, scatolucce, cosette!» In genere scarti di antiquariato. A Venezia li chiamano lattimi, fuori di Venezia opalin, anche flûte. Non puoi immaginare come io adori questa roba. In proposito so letteralmente tutto. Interrogami e vedrai. Era stato a Venezia, proseguì, forse per suggestione delle nebbie locali, che erano così diverse dai nostri cupi nebbioni padani, nebbie infinitamente più luminose e vaghe, soltanto un pittore al mondo aveva saputo renderle, più che il tardo Monet, il nostro De Pisis. Era stato a Venezia che lei aveva cominciato ad appassionarsi ai lattimi. Che brivido rabdomantico, ogni volta che riusciva a scovarne qualcuno di nuovo, di raro. Volevo sapere quanti pezzi era arrivata a mettere insieme. Quasi 200. Mi guardai bene dal farle notare come quanto mi diceva andasse scarsamente d'accordo con la sua dichiarata avversione a qualsiasi tentativo di sottrarre, almeno per poco, le cose, gli oggetti, alla morte inevitabile che attendeva anche loro e alla mania conservatrice di Perotti in particolare. Mi premeva che mi parlasse della sua stanza, che si dimenticasse di aver detto poco prima verboten, privat. Fui accontentato. Lei continuava a discorrere dei suoi lattimi, li aveva sistemati in bell'ordine, in tre alte scansie di mogano scuro che coprivano quasi per intero la parete di fronte a quella lungo la quale era accostato il letto, e intanto la stanza, non so con quanta inconsapevolezza da parte sua, veniva prendendo forma, si definiva a poco in tutti i particolari. Dunque, le finestre erano due, per la precisione. Guardavano entrambe a mezzogiorno ed erano talmente alte dal suolo che ad affacciarsi ai davanzali, con la distesa del parco sotto e i tetti che si stendevano laggiù oltre il limite del parco a perdita d'occhio, pareva di farlo dal ponte di un transatlantico. Tra le due finestre una quarta scansia, la scansia dei libri inglesi e francesi. Contro la finestra di sinistra uno scrittoio col panno verde e il lume, affiancato dal tavolinetto della macchina da scrivere e da una quinta scansia, quella dei libri di letteratura italiana, classici e contemporanei, e delle traduzioni, dal russo per lo più, Pushkin, Gogol, Tolstoi, Dostoevsky, Chekhov. Per terra un grande tappeto persiano e al centro della camera, che era lunga ma piuttosto strettina, tre poltrone e una recamier, da sdraiarcisi a leggere. Due porte, una d'accesso, in fondo, accanto alla finestra di sinistra, comunicante direttamente con la scala e l'ascensore, e una, a pochi centimetri dall'angolo della stanza opposto e contrario, che dava nel bagno. Di notte, lei dormiva senza mai accostare completamente le persiane. Una piccola lampada sopra il tavolino a fianco del letto sempre accesa e il carrello col thermos dello schivasser e col telefono, così vicino anche esso che per arrivarci doveva soltanto stendere un braccio. Passai la notte successiva in grande agitazione. Mi addormentavo, mi svegliavo, mi riaddormentavo e sempre riprendevo a sognare di lei. La sera del giorno dopo, appena rientrato da un'improvvisa corsa a Bologna all'università, mi attaccai immediatamente al telefono. Mi rispose Alberto. «Come va?» cantilenò ironico, dimostrando una volta tanto di riconoscere la mia voce. «È un mucchio di tempo che non ci vediamo. Come stai? Che cosa fai?» Sconcertato, col cuore in tumulto, mi buttai a parlare a precipizio. Affastellai molte cose, notizie sulla tesi di laurea che, era vero, mi si ergeva dinanzi come un muro invalicabile, considerazioni sulla stagione, la quale, dopo quegli ultimi 15 giorni di maltempo, dalla mattina pareva offrire qualche spiraglio, ma non c'era troppo da crederle. L'aria pungente parlava chiaro, ormai eravamo piombati nell'inverno e le belle giornate dell'ottobre scorso dovevamo scordarcele. Aggiungendo inoltre una relazione estremamente particolareggiata del mio rapido sopralluogo in via Zamboni, come dissi, neanche se lui, Alberto, che studiava a Milano, fosse tenuto a conoscere Bologna nella stessa misura in cui la conoscevo io. Mi chiese se poco fa non fossi per caso passato in bicicletta lungo la Mura degli Angeli. Lui in quel momento si trovava in giardino, uscito a vedere in che razza di stato la pioggia avesse ridotto il campo di tennis. Ma un po' per la distanza, un po' perché non ci si vedeva quasi più, non era stato capace di appurare se effettivamente fossi io il tipo che, senza scendere di sella e appoggiandosi con una mano al tronco di un albero, stava lassù, fermo, a guardare. «Ah sì? Ero dunque io?» continuò, dopo che ebbi ammesso, non senza titubanza, di aver preso, per tornare a casa dalla stazione, appunto la strada della Mura. E ciò spiegai per l'intimo ribrezzo che provavo ogni volta a passar davanti a certi brutti ceffi raccolti di rimpetto al caffè della Borsa, in Corso Roma, o o scaglionati lungo la giovecca. «Ah sì? Ero io?» ripeté. Voleva ben dirlo lui. Comunque, se ero io, perché non avevo risposto alle sue grida di richiamo, ai suoi fischi? Non li avevo sentiti? Non li avevo sentiti, mentii ancora una volta. Anzi, non m'ero neppure accorto che lui fosse in giardino. E adesso non avevamo veramente altro da dirci. Niente con cui riempire l'improvviso silenzio che si era aperto fra noi. «Ma tu cercavi Nicole, non è vero?» disse infine lui, come ricordandosi. «Sì», risposi. «Ti dispiace passarmela?» «Ben volentieri me l'avrebbe passata», replicò, «se non che, ed era molto strano che, a quanto pareva, quell'angelo non mi avesse preavvisato, Nicole era partita nel primo pomeriggio per Venezia, col programma anche lei di tirare il collo alla tesi. Era scesa a pranzo belle vestita da viaggio, con valigie e tutto, annunciando alla famigliola sbigottita quel che aveva in animo di fare. Si era stufata, aveva dichiarato di portarsi dietro il compitino, invece che a giugno, perciò, si sarebbe laureata a febbraio, cosa che a Venezia, con la Marciana e la Querini Stampalia sotto mano, le sarebbe riuscita benissimo, mentre a Ferrara no, per un sacco di ragioni. La sua tesi sulla Dickinson non sarebbe mai potuta procedere con la necessaria speditezza. Questo, almeno, aveva detto lei. Chissà, comunque, se avrebbe resistito, Nicole, all'atmosfera depressiva di Venezia e di una casa, quella degli zii, che non amava. Niente di più facile che, di lì a una settimana o due, la vedessimo rientrare alla base con le pive nel sacco. Gli sarebbe sembrato di sognare, a lui, se una volta tanto Nicole ce l'avesse fatta a reggere lontana da Ferrara più di 20 giorni, un mese di seguito. «Ma staremo a vedere», concluse. «Ad ogni modo, che cosa ne diresti tu? Questa settimana è impossibile, la prossima nemmeno, ma quella dopo sì, penso proprio che sarebbe possibile. Che cosa ne diresti tu di combinare un'automobilata fino a Venezia? Sarebbe divertente capitare addosso alla sorellina, io, te e il Giampi Malnate, per esempio». «È un'idea», risposi. «Perché no? Se ne potrà sempre parlare». «Intanto», riprendeva, con uno sforzo nel quale sentivo molto desiderio da parte sua di offrirmi subito un compenso per ciò che mi aveva rivelato testé, «intanto, scusa, sempre che tu non abbia niente di meglio da fare, perché non vieni a trovarmi qui a casa, diciamo, domani, verso le 5 del pomeriggio? Ci sarà anche il Malnate, credo. Prendiamo il tè, ascoltiamo qualche disco, parliamo. Non so se tu te la senta, tu che sei un letterato, di stare con un ingegnere, che sarei poi io, e con un chimico industriale. Però, se ti degni, bando ai complimenti. Vieni, che a noi farai soltanto piacere». Seguitammo ancora per un poco. Alberto, sempre più infervorato e entusiasta di questo suo progetto, che pareva estemporaneo, di avermi a casa sua, e io, attirato, ma anche respinto. Era verissimo, sì, ricordavo. Poco prima, dalla cima della Mura degli Angeli, ero rimasto a guardare per quasi mezz'ora il giardino, e la casa, soprattutto, che dal posto dove ero e attraverso le rame quasi spoglie degli alberi vedevo incidersi nel cielo serale dalla base al tetto cuspidato, sottile e svettante come un emblema araldico. Due finestre del mezzanino, a livello della terrazza da cui si scendeva nel parco, erano già illuminate e luce elettrica filtrava anche di lassù, dall'unica, altissima finestrella che si apriva poco sotto la sommità della torretta terminale. A lungo, coi bulbi degli occhi doloranti nei cavi delle orbite, ero restato a fissare il piccolo lume della finestrella superiore, un quieto, tremulo bagliore sospeso nell'aria via via più scura, come quello d'una stella. E soltanto i lontani fischi e le grida tirolesi di Alberto, suscitando in me, insieme col timore d'essere stato riconosciuto, l'ansia di riudire subito al telefono la voce di Nicole, avevano potuto a un certo punto scacciarmi di là. «Ma adesso, invece?» mi chiedevo sconsolato. «Che cosa mi importava di andare a casa loro, Adesso, se Nicole, non ce l'avrei più trovata. Se non che la notizia che ebbi da mia madre mentre uscivo dallo sgabuzzino del telefono, e cioè che Nicole Finzi-Contini, verso mezzogiorno, aveva telefonato chiedendo di me, mi ha pregato di dirti che è dovuta partire per Venezia, che ti saluta e ti scriverà, aggiunse la mamma guardando altrove, fu sufficiente a farmi di colpo cambiare avviso. Da quel momento, anzi, il tempo che mi separava dalle 5 dell'indomani prese a scorrere con estrema lentezza. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.